Italia in controluce. Oggi è l'8 settembre, quella che state ascoltando è la seconda edizione di Italia in controluce, il programma della redazione di Radio 24 che indaga ogni giorno sulla cronaca, sulla politica, sul costume, ma anche sullo spettacolo. Vi parla Daniele Biacchessi. Due domande: dove sono finiti i rifiuti di Napoli? Dove sono finiti i comitati contro le discariche? È veramente tutto a posto a Napoli? Il reportage di Paolo Picone. Napoli è oggi una città per lo più ripulita, sono scomparse le scene di degrado viste per anni, con cumuli di rifiuti sparsi in ogni angolo delle strade, sia del centro che della periferia. Il 15 agosto il miracolo della Giunta dei Magistris si è compiuto, liberando finalmente la città dalla spazzatura. E il primo ad essere soddisfatto dell'obiettivo raggiunto è proprio il primo cittadino di Napoli. Io sono molto soddisfatto perché abbiamo liberato Napoli dai rifiuti. Ad agosto non c'era nemmeno un sacchetto. Ovviamente per uscire definitivamente dall'emergenza dobbiamo consolidare questo risultato, aspettiamo settembre dove ci saranno il porta a porta e la differenziata che parte in città in tutti i quartieri, e poi ci sarà anche il trasporto dei rifiuti, una parte dei rifiuti in alcuni paesi del nord Europa. Ma non si è ancora fuori dall'emergenza vera e propria, e la prova del 9 ci sarà solo dopo che tutto il ciclo dello smaltimento inizierà davvero a funzionare. Si vive insomma la giornata e anche un piccolo intoppo potrebbe far ritornare i rifiuti in strada come fino a poche settimane fa. I primi a rendersi conto che Napoli era tornata pulita sono stati i turisti che hanno affollato in queste settimane la città. Ho detto una bella città, è pulita, mi è piaciuta molto. Noi veniamo dalla Romagna e sono contenta. Adesso qualche giorno rimaniamo a Napoli, poi gireremo insomma. Qui a Napoli, a vedere questa bellissima città, indubbiamente, piena di storia, di tradizioni. Bellissima città e per me eccezionale, anzi. Oh no, guardi, proprio ho portato mia figlia per toccare di persona. E anche il vice sindaco di Napoli con la delega all'ambiente Tommaso Sodano parla ora di una svolta nell'emergenza rifiuti per la città. E Napoli finalmente è pulita, è bella, adesso bisogna mantenerla così, è l'impegno dell'amministrazione comunale, da settembre parte il piano. Oggi bisogna però fare in modo che questo resti un motivo di continuità per Napoli. La svolta decisiva comunque è arrivata nel mese di luglio con la decisione della Giunta dei Magistris di inviare tra il 15 e il 20 settembre la prima nave con i rifiuti da Napoli verso il nord Europa, ovvero in Olanda. Un'iniziativa che è il frutto del lavoro e del confronto condotto con la provincia di Napoli, dirigenti del comune di Napoli, l'autorità portuale, la capitaneria di porto, oltre alla Sapna S.p.A. e alla Sia Napoli. Perché contestualmente al piano che consente di rendere Napoli autonoma, perché in questo modo la raccolta sarà effettuata dall'azienda Asia, il trasporto avverrà tutto nella città, quindi nulla uscirà fuori la città di Napoli, e saranno impegnate tutte le istituzioni, quindi dal comune al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la capitaneria di porto, autorità portuale, tutte le istituzioni impegnate, e nulla uscirà al di fuori di Napoli, in modo da evitare che si possano inserire in questo trasporto cose, diciamo, non rientranti nei limiti della legalità. Altro aspetto molto importante, quindi oltre alla chiusura in città di tutto il ciclo dalla raccolta fino al trasporto, è l'abbattimento dei costi. Sembrerà curioso, ma è così. Noi spendiamo oggi di più a portare da Napoli a Giugliano, da Napoli ad Acerra, da Napoli a Caivano, da Napoli a un'altra parte, che portare da Napoli nel luogo che noi abbiamo individuato. E sarà anche un risparmio molto sostanzioso, perché evidentemente vengono meno una serie di passaggi che sono facilmente intuiti. Dunque, navi di rifiuti da Napoli verso il nord Europa e soprattutto la realizzazione in città nel frattempo di siti di compostaggio e stir, finora soltanto sulla carta. Ma non si è fatto un impianto in questa città, che non è l'inceneritore, qua noi siamo contrari, altri lo facevano, ce lo trovavamo, gli altri hanno pontificato sull'inceneritore ma non l'hanno fatto, noi siamo contrari e non lo faremo fare, di quando staremo in questa ovviamente amministrazione, poi dopo, chi vedrà dopo, deciderà. Ma adesso siamo noi, l'inceneritore non lo faremo. Ma perché non si è fatto altre impiantissime? Si è fatto compostaggio? Non abbiamo... Infatti noi abbiamo chiesto, e devo dire c'è una trattativa importante anche con la provincia, da questo punto di vista in fase molto avanzata, per poter avere un impianto di STIR nella città. Se Napoli deve avere, Napoli è la terza città d'Italia, Napoli deve avere un'impiantistica. Noi abbiamo ereditato una situazione, oltre lo sfascio delle migliaia di tonnellate per strada, non c'è un impianto, non c'è nulla. Ma che ci sia stata una svolta nell'emergenza rifiuti di Napoli lo dimostrano iniziative di cittadini che negli ultimi mesi si sono moltiplicate in città e che hanno visto per lo più gruppi di giovani prendere in mano sacchetto e paletta ed andare a ripulire quartieri interi. C'è una diffusa consapevolezza che Napoli deve tornare a risplendere. In questa direzione si è mossa la comunità Clean Up, che nasce dall'idea di alcuni ragazzi di voler creare azioni dimostrative ai fini del miglioramento di alcune piazze e monumenti del centro storico di Napoli, ormai lasciati al degrado e all'incuria del tempo, nonché sopraffatti dall'invasione dei rifiuti. Ho promosso su Facebook questa iniziativa che si chiama Clean Up. In realtà è una proposta e quindi possono aderirvi chiunque, quindi non sono io l'organizzatrice, ma ognuno, insomma, che viene dal proprio contributo è in parte artefice della cosa. Oggi una bella partecipazione, pur essendo un'infrasettimanale, pur facendo un caldo bestiale. La cosa che per il momento mi sta lasciando molto soddisfatta è anche la partecipazione dei vari ragazzini della piazza che si stanno dando da fare, ci aiutano con la differenziata, è bello, insomma. Ovviamente il nostro è solo un messaggio, ovviamente è solo un'azione simbolica, perché è ovvio che se stasera o domani viene qualcuno e butta la carta per terra noi non ci possiamo fare niente, cioè il nostro messaggio è si può pulire volendo, quindi dovrebbe pesare di più magari sporcare, perché è molto più semplice non sporcare che poi pulire. E poi sostanzialmente è anche un messaggio di sensibilizzazione verso i cittadini che frequentano la zona, verso gli esercenti che magari possono contribuire minimamente nelle loro possibilità a mantenerla, ad innaffiare le piante, piccole cose quotidiane che poi possono trasformarsi in grandi cose. Napoli vuole voltare pagina e l'impulso maggiore ora arriva proprio dai cittadini stanchi di dover ogni giorno fare i conti con una situazione di degrado insopportabile. Napoli ce la vuole fare, sostanzialmente è questo quello che noi ci proponiamo di fare. Ovviamente ci vuole la partecipazione e il contributo di tutti, sia e soprattutto forse dei cittadini, perché molto spesso ci sono segnali di inciviltà anche da parte nostra, sia ovviamente delle istituzioni che devono fare quello per cui, insomma, sono stati preposti lì. È un'opera congiunta alla quale dobbiamo partecipare tutti, quindi noi diamo soltanto un segnale propositivo, è un segnale fattivo, ecco, perché molto spesso si parla soltanto e si fa poco. Noi facciamo prima e magari ragioniamo dopo, ecco. Clean Up ha avuto l'applauso dell'amministrazione comunale di Napoli e proprio il primo cittadino Luigi De Magistris a sorpresa si è presentato tra i ragazzi che ripulivano le strade del centro storico. Ma questa è la riprova di quello che io ho sempre pensato, che le cose si fanno tutte insieme, i cittadini devono essere consapevoli che il loro contributo è determinante, ognuno deve fare piccole cose per fare grandi cose, questa apparentemente è una piccola cosa che contribuisce a fare grandi cose, come quello di rendere questa città più pulita, come quello di aprire le piazze, di creare in questi luoghi così belli degli spazi all'aperto dove far divertire i ragazzi, ma anche far pensare, per esempio aprire un teatro all'aperto, un cinema all'aperto, musica all'aperto, insomma il comune è favorevole in questo, chiunque si faccia avanti può avere autorizzazioni a prendere lo suolo pubblico per poter fare attività di questo tipo, anche le municipalità devono fare questo, insomma a Napoli c'è uno spirito buono e c'è una bella aria che si respira, questo è il modo giusto per cambiare la città, ma Napoli io sempre, altrimenti non mi candidavo, se avessi pensato che Napoli fosse una città morta non mi sarei mai candidato. Napoli deve essere una città che deve essere motivata, i napoletani devono credere in cose serie e credibili, la risposta c'è, è forte e sarà ancora più forte nei prossimi giorni e le prossime settimane quando riusciremo a raggiungere mano a mano i risultati che ci siamo prefissi. Dunque sembra proprio che a Napoli annottata è finalmente passata. seconda edizione di Italia in Controluce. Ci sentiamo domani per la pillola legata ai temi di strettissima attualità. Domani parleremo di mafie internazionali, un convegno che parte domani a Otranto.